Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. In Sargante il traghettatore, buongiorno. Per i manager la CSR è anticrisi. Insieme all'attenzione per lo sviluppo sostenibile, le politiche di responsabilità sociale dell'impresa sono, agli occhi dei responsabili delle aziende, la valenza vera e propria anticrisi. Questo lo afferma Business International e Amref, che hanno programmato una ricerca in questo senso. Quindi salutiamo con particolare, a questo punto, attenzione Fulvio Rossi, neo presidente del CSR Manager Network. Buongiorno Fulvio Rossi. Noi ne parliamo sempre, ma giova a ricordare, il CSR Manager che cosa fa in azienda? Buongiorno a tutti. Il manager della CSR in un'azienda cerca di capire quali sono gli impatti che l'azienda ha dal punto di vista sociale e ambientale e di introdurre dei miglioramenti a favore degli stakeholder, cercare di capire se questo può generare delle opportunità per il business. Questa figura è relativamente giovane, ma quanto basta per far nascere questa associazione? Si chiama CSR Manager Network, di cui sei presidente da qualche giorno. Quanti sono? Sono tanti gli iscritti a questa associazione? Sono oltre un centinaio, anche se naturalmente non rappresentano proprio tutti quelli che fanno questo mestiere, ma direi che sono la grande maggioranza. Grandi aziende e piccole aziende, vero? Non c'è differenza da questo punto di vista. Grandi aziende e piccole aziende, anche se la maggioranza sono grandi, perché alla fine una strutturazione di questa attività è soprattutto nelle grandi imprese quotate. Una sola battuta, visto che oltre ad essere presidente sei anche un CSR manager, nello specifico a Terna. Come si caratterizza a Terna la tua attività, per esempio? C'è un elemento di pianificazione degli obiettivi, c'è una fase di rendicontazione, è molto importante il rapporto di sostenibilità o bilancio sociale che dir si voglia, e poi ci sono tutte le attività che sono secondo me il vero cuore della questione, che comportano l'individuazione insieme al resto del management di quali sono le iniziative da portare avanti per integrare appunto queste questioni ambientali e sociali nella gestione del business. Bene, grazie a Fulvio Rossi, complimenti per l'elezione, ci sentiremo sicuramente per commentare le vostre attività. Buona giornata. Arrivederci. Continuiamo, accettato bilancio di sostenibilità, Fulvio Rossi, noi ne citiamo proprio uno che è di A2A, una municipalizzata Milano e Brescia, che ha investito 50 milioni di euro, è quello che si evince da questo bilancio sociale, 50 milioni di euro per migliorare le performance ambientali sulle emissioni, sulle efficienza energetica degli impianti, basandosi molto sull'energia rinnovabile e sull'introduzione di tecnologie innovative. Innovativa come è innovativa l'attività di Italdata. Edmondo Gnierre, l'amministratore delegato, buongiorno Edmondo Gnierre. Buongiorno. Ha vinto indirettamente insieme a RAI il premio per l'innovazione di Confindustria, sistemi innovativi e tecnologici. L'oggetto premiato è RAI Viaggi, interattività per il turismo. Che cos'è RAI Viaggi e come si caratterizza questa vostra attività, Gnierre? Come Italdata collaboriamo con RAI già da circa un anno su un tema particolarmente innovativo, che è quello della convergenza tra televisione e mobile internet. Convergenza non tanto dal punto di vista tecnologico, ma proprio dal punto di vista dei contenuti. E questo progetto, RAI Viaggi Interattività per il Turismo, è un progetto appunto che consente di utilizzare i contenuti televisivi mentre si è in viaggio visitando una città d'arte. Abbiamo sviluppato un'applicazione di realtà aumentata che si chiama Smart Town, che consente all'utente di visualizzare i contenuti televisivi, le informazioni che riguardano monumenti e zone della città mentre si è in viaggio, mentre si visita una città d'arte. Bene, questo è uno dei tanti modi in cui altri stanno arrivando, ne parleremo, in cui si può fruire dei beni culturali grazie alle nuove tecnologie. Grazie anche a Edmondo Gnierre e complimenti per questo premio. Noi chiudiamo ricordandovi come al solito di visitare le pagine Facebook di Ferribot e di cliccare su mi piace. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Valeria Bernardi in regia. Buona giornata a tutti.